prendermi solo perché portandoti via posso anche perdere. Vedi, per me perdere te vuol dire che poi perdo anche me. Ma come si fa a non vendersi l'anima quando sei tu che vorresti comprarmela? Ma come si fa a sprecare anche un attimo quando, quando ti dà la maniera di vivere? Ma tu, tu come fai a parlare d'amore se non sai dare tutto di te? Ecco perché non chiederai niente di me, che non avrai. Ma come si fa a non vendersi l'anima quando sei tu che vorresti comprarmela? Ma come fai a parlare d'amore se non sai dare niente di te? Ecco perché non chiederai niente di me, che non avrai. Ma come si fa a non vendersi l'anima quando sei e vorresti comprarmela? Ma come si fa a sprecare anche una